prima dei sogni. Il mio destino è segnato. Allora, buongiorno e buon lunedì a tutti e tutte. Ore 12.05 cominciamo questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. E chiariamo e mettiamo alla luce che per oggi avevamo previsto di fare altre corrispondenze rispetto a quelle che invece andremo a fare. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto o a reperire proprio materialmente i contatti giusti per parlare di ciò che volevamo. Qualche cosa comunque la accenneremo noi stessi a voce. Una di queste corrispondenze che avremmo voluto fare era anche una cosa un po', diciamo, una novità per Corrispondenze Operaie, perché ci saremmo voluti mettere in contatto con Granada, quindi con lo Stato spagnolo, fare anche una corrispondenza con traduzione e tutto, andando a parlare nello specifico della situazione di due compagni, Carlos e Carmen, che sono stati recentemente condannati a 3 anni e 1 giorno di carcere ognuno per i fatti, dei fatti che risalgono allo sciopero generale del 29, se non sbaglio, di maggio del 2012, e a Granada, appunto, nella loro città. Cerco di spiegare io più o meno quello che è successo. È un peccato che non siamo riusciti a fare questa corrispondenza, però anticipiamo che proveremo magari per lunedì prossimo a metterci in contatto con dei lavoratori del SAT, il Sindicato Andaluz de Trabajadores, cioè il sindacato dei lavoratori andalusi, per magari anche andare al di là di questa situazione specifica, di questa condanna a questi due compagni. Comunque, quello che è successo durante gli scioperi generali, almeno anche l'esperienza che ho avuto io personalmente, nello Stato spagnolo, in tutto lo Stato spagnolo, ciò che si verifica non è solo uno sciopero, quindi un'astensione dal lavoro dei diretti interessati, quindi dei lavoratori e delle lavoratrici, ma c'è una partecipazione ampia e generalizzata anche da parte dei militanti, dei collettivi e dei movimenti sociali, per cui nelle giornate di sciopero, al di là, tra l'altro, fin dalla mattina o dalla notte, quando si praticano i blocchi stradali all'uscita delle fabbriche, dei siti produttivi o di grande distribuzione, questo soprattutto ad opera dei lavoratori e dei sindacati, i collettivi e i movimenti sociali, soprattutto nel centro della città, nella zona più commerciale, cercano di fare dei picchetti che girano, quindi girovagando per il centro, cercano di picchettare i vari esercizi commerciali come sono negozi, bar, ristoranti, per farli chiudere e far avere un appoggio ancora più massivo allo sciopero generale. In uno di questi casi, proprio a Granada, questi due lavoratori, Carlos e Carmen, erano insieme ad altri a volantinare e a chiedere alla gestrice di un esercizio commerciale di chiuderlo, e questa persona li ha denunciati. Quello che poi è successo, sono stati identificati dalla Polizia Nazionale, sono andati a processo e sono stati condannati a 3 anni e 1 giorno di carcere per quella condanna è attentato al diritto al lavoro, per cui c'è anche una sorta di paradosso, perché chiaramente questo poi nella campagna di appoggio, nei comunicati di solidarietà che sono usciti, viene fuori chiaramente com'è possibile essere condannati a attentato al diritto al lavoro se proprio è il lavoro, il diritto al lavoro che si sta difendendo con quello sciopero. Ci sono state delle mobilitazioni, l'ultima di queste venerdì a Granada, una manifestazione di 3.000 persone ha percorso tutta la città, e tra l'altro proprio da lì i compagni di Carlos e Carmine hanno fatto un appello a una mobilitazione internazionale prevista all'inizio per il 21 giugno, è stata spostata questo appello per il 28 giugno, una mobilitazione internazionale a organizzare presidi, manifestazioni sotto ambasciate o consolate dello Stato spagnolo nei vari paesi europei per appunto mostrare la solidarietà a questi compagni e chiedere nello specifico allo Stato spagnolo che si ponga fine alla repressione a chi sciopera, che siano essi lavoratori e lavoratrici o semplici solidali. Tra l'altro, in questo mi ricollego, andiamo qualche centinaio di chilometri un po' più a nord, nei Paesi Baschi c'è un altro caso più o meno simile, dove due compagni, Ursi e Jon, sono stati condannati a 15 mesi di prigione l'uno, e per dei fatti sempre dello stesso sciopero. Prima avevo detto maggio, mi correggo, era il 29 marzo del 2012, e sono stati condannati appunto a 15 mesi di prigione per, leggo la condanna, sarebbe attentato, lesioni e disordini pubblici, e un altro compagno è stato invece assolto e un'altra compagna invece andrà a processo in un altro momento, perché all'epoca dei fatti era minorenne. Per cui abbiamo voluto un attimo introdurre così, peccato che non c'è una corrispondenza diretta, però abbiamo voluto mettere in relazione questi fatti che avvengono nello Stato spagnolo, per cui la repressione, invece di abbassare il livello rispetto, diciamo, no, dai Paesi Baschi, il livello della repressione sta aumentando il livello in tutto lo Stato spagnolo, adeguandosi così a quello che nei Paesi Baschi conoscono già da decenni. E ripeto, magari per lunedì prossimo proviamo ad andare ad analizzare un po' meglio ciò che sta avvenendo sul fronte delle lotte sul lavoro nello Stato spagnolo. Intanto mandiamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo invece con altre corrispondenze qui per la trasmissione. Allora ritorniamo in onda e torniamo in Italia con i temi di questa trasmissione. Abbiamo in collegamento un lavoratore di Alitalia, perché una delle tematiche forse più importanti che si potrebbero affrontare in questi giorni, in queste settimane, di ciò che sta avvenendo, e perché è notizia di pochissimi giorni fa la dichiarazione dell'amministratore delegato del Torchio, che parla di una raggiunto accordo fra Etihad, la compagnia degli Emirati, e Alitalia, e per il finanziamento di, se non sbaglio, se non vado errato poi mi correggerà il lavoratore, di almeno 1,2 miliardi in qualche anno, appunto per Alitalia, cosa che però tra l'altro prevede tra le varie cose anche 2,251 esuberi circa, sul personale, se non sbaglio anche in questo caso in maggior parte sul personale di terra. Tra l'altro non stiamo parlando del primo caso di fra esuberi o comunque cassa integrazione a rotazione, cassa integrazione a zero ore, contratti di solidarietà e mobilità, perché ci sono ancora 7.000 lavoratori che da 2008 a oggi sono via via entrati in questi diversi regimi, per cui la prima domanda che facciamo al lavoratore è di fare un rapidissimo excursus storico toccando alcuni punti appunto dal 2008 in poi, per capire meglio cosa, come siano state le evoluzioni della situazione lavorativa in Alitalia, e in questo caso anche vista la riduzione del personale che lavora a pieno regime, come eventualmente sono cambiati i turni di lavoro e anche appunto le condizioni lavorative. Allora, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sì, fare il punto della situazione sull'Italia non è molto difficile. Nel 2008 all'Italia aveva problemi di cassa, un problema che era sopraggiunto e che si era definito sempre più in maniera marcata negli anni, nei 3-4 anni precedenti al 2008. A quel punto il governo, così come era stato annunciato nelle varie legislature, dai vari governi che si sono succeduti, annuncia l'avvio della privatizzazione di Alitalia. C'è stata Air France che si affacciò, propose un piano di privatizzazione di Alitalia che prevedeva grosso modo un numero di esuberi da subito annunciati, quelli immediatamente realizzabili, inferiori a quelli che invece sono stati realizzati dalla cordata italiana che poi si è costituita per rilevare all'Italia. Comunque, insomma, Air France si ritirò perché ritenne di non sostenere l'opposizione dei sindacati. In realtà noi riteniamo che l'allora governo Berlusconi suggerì a Air France di ritirarsi in quel momento perché serviva a Berlusconi utilizzare l'italianità della compagnia a scopi di propaganda politica. Di fatto, insomma, l'Italia venne privatizzata e il passaggio di mano della compagnia, della ex compagnia di bandiera, venne nelle mani di una cordata di imprenditori che venne chiamata da più parti patrioti. Confezionarono un piano cosiddetto Fenice, quello che avrebbe dovuto far risorgere dalle ceneri. In realtà nell'arco dal 2008 al 2014 i debiti accumulati dall'Italia in proporzione sono enormi, e sono addirittura maggiori di quelli che riusciva a conseguire la vecchia Alitalia compagnia di bandiera. Addirittura sembra che la riunione del CDA di Alitalia della scorsa settimana non abbia annunciato la enorme passività di bilancio conseguita nell'anno 2013, semplicemente per cautela nei confronti dei risultati che avrebbe dei contraccolpi sul mercato, anche se Alitalia ancora non è più una compagnia presente in borsa, però evidentemente questa cautela è anche a fronte della trattativa avviata con Etihad, ma sembra appunto che la passività sia superiore ai 500 milioni di euro, e quindi una passività conseguita in un anno è addirittura una negatività di bilancio che è ancora più alta dei risultati già sfavorevoli che raggiungeva la compagnia di bandiera. Quindi, insomma, per scusami se ti interrompo. Allora, prego. Perché chiaramente stai mettendo in evidenza come chiaramente l'operazione del 2008 sia una sorta di, diciamo, salvataggio, perché già c'era debiti, e tu chiaramente mi hai messo in evidenza che in realtà negli ultimi anni sono addirittura aumentati. Però a tuo modo di vedere, poi in realtà si parla anche di dati concreti, però questi debiti come sono stati creati in Alitalia in tanti anni? Ma bisogna anche capire, intanto l'Italia è stata utilizzata purtroppo non tanto come viene spesso dipinta, come il carrozzone, il contenitore di raccomandati, perché anche le comparazioni che venivano effettuate sul costo del lavoro con i principali operatori europei ci rappresentavano una compagnia di bandiera che nel rapporto con il fatturato il costo del lavoro era 3-4 punti percentuali meno di Lufthansa, 2-3 punti meno di British e 2 punti meno di France. Questo addirittura prima dell'avvio dei licenziamenti, dei 10.000 licenziamenti che sono stati effettuati nel passaggio di proprietà e nella privatizzazione dalle mani, insomma, dello Stato, della maggioranza della compagnia, alle mani della cordata italiana. I debiti sono stati accumulati, a mio avviso, semplicemente per scelte una dopo l'altra conseguenti sul mercato errate. scelte che potrebbero essere anche di posizionamento del vettore e del network sul mercato. Un vettore che è andato a sopprimere, faccio degli esempi pratici, dei voli intercontinentali, ovvero dei voli in cui la compagnia di bandiera sarebbe stata meno esposta alla concorrenza delle low cost, concentrando il proprio network ad esempio sul traffico sul medio raggio e sul corto raggio, su voli nazionali. Cioè c'è stato un progressivo ridimensionamento che dal 2000 in poi ha in qualche maniera assediato all'Italia, un progressivo ridimensionamento che è seguito alle dichiarazioni dell'allora commissario europeo De Palacio, che pensa per l'Italia un futuro di ancella. Addirittura De Palacio disse nel 2000 che da lì a poco tempo i vettori che sarebbero rimasti con vocazione globale in Europa sarebbero stati tre: British, Lufthansa e Air France, cioè i vettori delle compagnie dei paesi di serie A, mentre per gli altri la De Palacio già annunciava un destino, lei diceva, di vettore ancillare, cioè un vettore che avrebbe dovuto in qualche maniera effettuare un traffico dai principali aeroporti del paese di origine, quindi nel caso di Alitalia dall'Italia, per i principali aeroporti della compagnia, del partner industriale importante europeo, e nel qual caso si profilava all'orizzonte, e a mio avviso non è completamente cancellato all'orizzonte, il futuro di Air France. Quindi per l'Italia sì, già nel 2000 si disegnava un network poco più che nazionale, fatto di voli in navetta che dovevano portare i passeggeri a Parigi, al Charles de Gaulle, dal quale dovevano poi decollare per i voli intercontinentali. Insomma, una Alitalia che, al contrario delle compagnie di quelle dei serie A, dei paesi di serie A dell'Europa, si andava ridimensionando in un momento in cui, a fronte di una crisi, all'epoca sì, di decremento degli indici traffico passeggeri e merci, si stavano riposizionando, allargando il proprio network, approfittando forse di una diminuzione della concorrenza sui voli intercontinentali. All'Italia invece subì un ridimensionamento. Questo ha fatto sì che l'aumento indiscriminato del costo del petrolio, le scelte sbagliate anche sulla mancata formulazione di appositi assicurazione sull'aumento del petrolio, cioè una serie di concause, nonché una purtroppo reiterata abitudine, per cui lo vediamo anche quello che succede oggi, di queste grandi aziende nella gestione allegra degli appalti e dei subappalti, noi riteniamo che ha fatto il disastro di Alitalia. Non certo il costo del lavoro, ripeto, stiamo parlando del 2004, prima ancora dell'avvio dei primi licenziamenti del primo governo Berlusconi, prima della messa al bando di Alitalia dal governo Prodi, la comparazione del costo del lavoro con le principali compagnie europee ci rappresentavano un'Alitalia che sicuramente aveva un costo del lavoro più basso dei principali competitor europei. Poi certo, se avessimo comparato il costo del lavoro di Alitalia con le low cost, che hanno tutte altre strutture, tutte altre, che addirittura poi beneficiano di surrettizi aiuti di Stato da parte dei vettori degli aeroporti minori in Italia, questo è uno scandalo negli scandali, ma comunque. E poi purtroppo l'Italia sconta pure un'assenza, che a mio avviso non è soltanto incapacità, ma è anche lì una scelta, di una definizione di un programma di riassetto del comparto aereo aeroportuale italiano. Se pensate che in Italia è il paese che ci sono più di 100 aeroporti, e che su Alitalia nel 2004-2005, l'epoca dell'avvio del ragionamento sulla privatizzazione, ricordiamoci che nel 2004 Berlusconi annunciò che in Italia dall'Italia ci sarebbero stati il doppio del personale necessario, quindi preannunciò già 4 anni prima quello che sarebbe poi successo nel 2008, e addirittura nel 2003 Lunardi annunciò la necessità di costruire una cordata di imprenditori italiani che la rilevassero. Ecco, dicevo, in quel momento, mentre ancora si definiva questo aspetto, questo andamento, in Francia erano 6 i vettori che facevano concorrenza da France, in Alitalia erano 22 i vettori. È evidente che c'è una scelta di tipo industriale da parte del governo, da parte della politica, che aveva consentito un proliferare proprio nell'ottica di un ridimensionamento, di una mancata tutela. Evidentemente nel comparto del trasporto aereo si era già definito il passaggio di mano del controllo, peraltro del controllo del ricco mercato del trasporto aereo italiano, un ricco mercato perché da anni, al contrario di quello che si dice, in particolare dal 2008 ad oggi, l'aumento dei passeggeri e merci nel trasporto aereo italiano è conclamato. Se pensiamo che nonostante il lieve calo del 2013 sul 2012 e del 2012 sul 2011, un lieve calo di un punto e mezzo percentuale per ogni anno, negli ultimi 5 anni, quindi anche considerando questo leggero calo recente, negli ultimi 5 anni, quindi 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, quindi negli anni della crisi mondiale, della crisi economica mondiale, il trasporto passeggeri in Italia è aumentato del 10,6% e il trasporto merci del 16,3%. Cioè dati che danno un'idea che la crisi non esiste. Le scelte progressive di ridimensionamento della compagnia di bandiera derivano da una mancata volontà di rilancio del vettore, così ecco, come scusami, di tutto il comparto del trasporto aereo, che è di fatto assediato. Le crisi si moltiplicano, l'annuncio ormai all'Italia annuncia 2200 esuberi con un piano di ingresso di Etihad, ma c'è Ground Carrier che va al fallimento e mette a repentaglio il posto di lavoro di 850 persone, c'è la SEA che con un'operazione analoga di chiusura, di fallimento della SEA Handling e di riapertura di una nuova società comunque partecipata al 100% della SEA, annuncia la fuoriuscita di 500 lavoratori e un taglio e un peggioramento delle condizioni normative e contrattuali. Cioè c'è una ristrutturazione del settore, un ridimensionamento del settore e un'uscita completa del controllo pubblico e della partecipazione pubblica sia nella proprietà del vettore che della proprietà degli aeroporti, e contemporaneamente un attacco scellerato alle condizioni, un peggioramento delle condizioni di lavoro, ai salari, un aumento indiscriminato della precarietà, che la dice lunga poi sulla crisi del comparto. Nel momento in cui aumentano i lavoratori precari è evidente che le aziende sono gonfie di lavoratori precari, è evidente che l'obiettivo non è quello di contenere una crisi e di ricorrere agli ammortizzatori sociali per diminuire l'effetto di una diminuzione delle attività, come potrebbe essere per altri settori industriali del paese, ma è evidente che l'obiettivo è un altro, e l'obiettivo è stato conseguito già nel 2008 con l'applicazione in Alitalia di un contratto peggiorativo, nel settore del comparto aeroportuale con l'applicazione di contratti sempre più penalizzanti, ma che continua ad essere insomma continua ad essere inanellato anno dopo anno, e ancora questo è un altro anno, un'altra vertenza, snodo, quella che si sta consumando in questi giorni in tutto, ripeto, il comparto. Ecco, allora tu hai fatto un quadro abbastanza chiaro mettendo in fila tutta una serie di cose che sono molto importanti. Chiaramente ora, magari concentrandoci sugli effetti che questa privatizzazione, questi piani di cambiamenti a ribasso, diciamo, dal punto di vista delle condizioni lavorative, hanno provocato. Tu parlavi prima di 10.000 licenziamenti, suppongo che siano tutte quelle persone che sono entrate in cassa integrazione zero ore, mobilità, contratti di solidarietà, e dall'altro lato, come appunto dicevi poc'anzi, il fatto che comunque quello che si è verificato sono anche contratti precari, che sono, cioè il numero dei contratti precari che è aumentato di gran misura. Quest'ultima operazione con l'entrata di Etihad, con il finanziamento di Etihad, che a quanto leggo io è di 1.250.000.000 di euro entro il 2018 a fronte di 2.251 esuberi. Cosa cambia? Cioè, penso che sia la linea sia più o meno quella che tu hai già tracciato di tutti questi ultimi anni, però come si inserisce questo accordo con Etihad in questo? Allora, intanto il piano di Etihad è sostanzialmente segretato, quando verrà pubblicato potremo fare delle considerazioni più puntuali. L'annuncio della costruzione di un network, di uno spostamento dell'asse dal medio corto raggio al lungo raggio è negli annunci che hanno fatto l'amministratore delegato del Torchio e comunque anche l'amministratore delegato di Etihad, della compagnia degli Emirati. Ora noi saremo a verificare dalle prime indiscrezioni sembrerebbero presto disponibili un numero dai 7 ai 9 aeromobili di lungo raggio nella flotta, ma che nel frattempo deve subire un ulteriore ridimensionamento nel corto raggio. Quindi sul piano vedremo. Quello che più ci preme da un punto di vista di lavoratori, ma anche di organizzazioni sindacali di base, sono un rappresentante della Cube Trasporti, quello che più ci preme è che vengano messi fuori 2200 lavoratori, cioè mentre all'Italia quotidianamente utilizza più di 1300 precari in questi giorni, quando ancora non è decollata l'alta stagione, 1300 lavoratori precari, nel frattempo ne annuncia l'espulsione di 2200 e lo fa peraltro all'indomani di un accordo che a San Valentino hanno sottoscritto CGIL, CISL, UIL e purtroppo anche USB, anche ancora una volta senza il consenso dei lavoratori, che ha messo, guarda caso, fuori dalla ha definito che attualmente in Alitalia c'era un esubero di 2200 lavoratori. Come tornano i conti, è evidente che insomma si stava già allora preparando la strada a quello che poi oggi è la pretesa di Etihad, cioè già allora è stato fatto un accordo che ha tagliato la forza lavoro di 2200 posti distribuendo il sacrificio con la cassa integrazione e la solidarietà, la cassa integrazione a rotazione e la solidarietà, cioè due strumenti di ammortizzazione sociale solidaristici, cosa che Etihad invece attualmente, ora che definitivamente annuncia di entrare nel capitale con 560 milioni e di investire quasi una quota altrettanto, anche qui siamo alle indiscrezioni, le verificheremo, questa dell'aumento di capitale è piuttosto certa, quella dell'annuncio di ulteriori investimenti per l'acquisto di aeromobili è stata dichiarata da Lupi, il ministro che però oggi dice una cosa e domani ne smentisce la stessa con una leggerezza e una superficialità che davvero non si attiene al livello istituzionale che rappresenta e che dovrebbe rappresentare, per cui lo staremo a vedere. Certo è che insomma se il passaggio nelle mani degli Emirati Arabi del piccolo mercato del trasporto aereo italiano debba essere ancora collegato a una perdita di occupazionale è davvero una cosa che è inconcepibile, inaccettabile, una cosa contro la quale abbiamo già indetto il quarto sciopero generale del trasporto aereo, ne faremo un altro domenica 22. Cercando però qui di mettere insieme vertenze che parlano della stessa lingua e che parlano dello stesso problema, cioè vertenze di aziende che con ricatto del fallimento, perché qui siamo di nuovo a ricatto del fallimento anche nell'Italia, ormai il modello esportato prodotto dall'Italia, dai capitani coraggiosi e dal governo Berlusconi nel 2008, che ci ha pure legiferato con la 166 del 2008, che ha rivisto la gestione della crisi delle grandi imprese, una legislazione ad hoc che ha consentito agli imprenditori o ai prenditori, come noi li chiamiamo, di mettere del capitale svincolandoli dal rischio sia delle passività di bilancio e sia da eventuali contenziosi con i lavoratori, è quello che ai lavoratori, con i contenziosi con i lavoratori espulsi, è successo nel 2008, lo riadotta di nuovo, lo vuole, lo pretende di riadottare la nuova, diciamo la nuovissima l'Italia, visto che la nuova l'Italia è la CAI e poi rispetto alla vecchia l'Italia, ma lo adotta, ripeto, Granchello, lo pretende di adottare la SEA, cioè tra l'altro su tutto questo c'è una categoria attonita, una categoria che purtroppo negli ultimi scioperi che abbiamo indetto non ha risposto nella maniera adeguata all'attacco che sta subendo. Su tutto il territorio nazionale abbiamo chiamato i lavoratori degli aeroporti, i lavoratori di Alitalia, dei vettori, di tutti i vettori. Immaginate che Meridiana, che è l'altro vettore principale italiano, annuncia 1300 esuberi, nel momento in cui Alitalia ne annuncia 2200, vi dà un po' la dimensione per restare ai vettori. Ripeto, le società di gestione aeroportuale ve l'ho detto, le società di handling l'ho accennato, insomma abbiamo cercato di mettere insieme delle vertenze, una vertenza che collegasse tutto questo. Purtroppo la categoria non ha risposto, ripeto, purtroppo ci sono il sindacato che tace e che continua a sottoscrivere accordi. L'ultimo è quello fatto in SEA qualche giorno fa, che appunto prevede il travaso dalla società, dalla SEA Handling, in una nuova società che si chiama Airport Handling, in cui i lavoratori dovranno subire, secondo l'accordo sottoscritto da CGIL, CISL, UIL e ancora una volta da USB, circa il 20% del taglio del costo del lavoro. I lavoratori chiamati al referendum hanno votato in 2000 e l'hanno bocciato l'accordo, ora sono partiti addirittura le minacce e le ritorsioni, per cui addirittura CGIL, CISL, USB diramano comunicati stampa o dichiarazioni in cui dicono che loro purtroppo era il miglior accordo possibile, ora i lavoratori li lasceranno alla mercé dell'azione della controparte datoriale e che provvederà a licenziarli. Insomma, tutto questo, quello che accade in Italia, quello che accade nelle gestioni, che è importante rappresentarlo collegato, perché è collegato, c'è un filo rosso che sottende queste vertenze, noi lo stiamo cercando di riagomitolare per cercare di crearne una davvero generale che metta in crisi il modello organizzativo imprenditoriale, che scarica sulla categoria, sui lavoratori, delle scelte davvero inaccettabili, con un ministero che nel frattempo sembra di passaggio in Italia. Pensate che il ministro del lavoro, il ministro dei trasporti Lupi, parte dopo aver detto che i francesi non andavano bene, ma se lo dicono gli Emirati Arabi va bene, e qualche anno dopo basta cambiare la compagine governativa con la quale si è ministri dei trasporti, addirittura il ministro Lupi ormai prende ordini dal governo degli Emirati, perché ci annuncia che, anzi addirittura dai Fiat, neanche da un parallelo o dal fondo sovrano degli Emirati, perché il ministro Lupi ha annunciato che non solo ridimensiona l'Italia e mette a disposizione degli Emirati gli ammortizzatori necessari per fare almeno della forza lavoro, ma ha annunciato che si attrezzerà per garantire l'alta velocità di collegamento con gli aeroporti, per garantire un decreto che liberalizzerà i voli ulteriormente sull'INAPE. Insomma, il ministro Lupi nelle mani, sembra come che avessimo un ministero che si è trasferito ad Abu Dhabi e un Parlamento che in vacanza ad Abu Dhabi, che ci manda le direttive di un, peraltro non, ripeto, di uno Stato sovrano, ma addirittura di un gruppo di interessi di privati, di uno Stato, di privati, diciamo. Di privati, un gruppo di interessi di privati, che è una cosa davvero ridicola. Purtroppo in questa situazione è spaventoso il silenzio, anzi, lì dove non c'è un attivismo politico a far sì che si compiano questi progetti, c'è un silenzio generale, un'incapacità di reazione da parte di ogni forza politica, purtroppo un'incapacità di reazione anche, ripeto, dei sindacati, con scelte davvero aberranti, quelle di pezzi del sindacalismo di base, che addirittura stanno seduti al tavolo della trattativa a ragionare con un gruppo di imprenditori come quello della cordata di italiani, che ha usufruito di una serie di agevolazioni da parte del governo Berlusconi per rilanciare l'Italia, che non ha rilanciato, l'ha incenerita ancora più di quello che era. Scusami, questa cordata, se non vado errato, quando è entrata dentro l'Italia si è presa la parte fra virgolette sana, possiamo dire, perché tutta la parte dei debiti è rimasta a carico dello Stato. Questa, la Bad Company, cioè questa parte, che fine ha fatto? La Bad Company è stata costituita da è praticamente l'Alitalia linee aeree in amministrazione straordinaria, l'Italia Air, l'Italia Servizi in amministrazione straordinaria, sono dei contenitori vuoti senza più attività. Le attività, come accennavo prima, sono state trasferite senza il piombo nelle ali, che veniva definito, cioè senza i lavoratori, il piombo nelle ali dei lavoratori, secondo la vulgata di qualche anno fa, che è poi la stessa di oggi, era un certo numero di lavoratori, e questi lavoratori sono rimasti nella società priva di attività e che è in via di liquidazione, dove si può, il commissario provvede a pagare i debiti con gli azionisti, con chi ce li ha, con i creditori di Alitalia, e nel frattempo questi lavoratori scaricati sono passati attualmente dalla cassa integrazione alla mobilità, il prossimo anno usciranno anche dalla mobilità. Un sistema legislativo che non ha previsto solo delle modifiche dal punto di vista della gestione societaria delle aziende in crisi, ma che ha previsto anche una gestione nuova dei licenziamenti. Se immaginate che fino al 2008 un licenziato era scelto sulla base di criteri sociali, cioè veniva favorito l'occupazione dei lavoratori più anziani e con maggiori carichi familiari, dal 2008 in poi l'azienda ha scelto, perché ormai le aziende, quando vanno in crisi, chiudono la vecchia, ne aprono un'altra, ci trasferiscono le attività liberate da qualunque vincolo, scelgono ciò che vogliono, e quello che si è fatto già nel 2008 e che si continuerà a fare oggi nel 2013 è che si sterilizza la compagnia. Sterilizza è un termine molto asettico, ma che significa si mettono fuori tutti i lavoratori sindacalizzati, quelli che Sabelli una volta li definiva con difficoltà intrinseche oggettive, cioè portatori di handicap, lavoratrici madri, 104, insomma operazioni che dal punto di vista schifose, da un punto di vista sociale, è definirle così è poco, davvero contro cui bisognerebbe organizzare, non sottoscrivere gli accordi, ma sarebbe stato necessario allora come oggi organizzare un fronte davvero unico dei lavoratori, perché ricordiamo, non sarà solo il comparto trasportiero a pagarne le conseguenze. Il modello Alitalia, la Bad Best Company, è stato il modello che poi è stato adottato in Fiat e che ha aperto la strada a questo nuovo modo di gestire le relazioni sindacali e le relazioni con i lavoratori delle grandi imprese del nostro paese. Va bene, senti, arrivando alla conclusione, perché così magari non riusciamo anche dopo a chiamare a sentire Ground Care che situazione hanno loro, che tra l'altro penso sia abbastanza simile dal quadro che ci hai descritto, e ecco, magari andando a concludere, visto dichiarazioni dei sindacati confederali rispetto a questo annuncio dell'amministratore del Torchio, io quello che vedo comunque, la maggior parte dei sindacati confederali sono abbastanza contenti, diciamo, e definiscono come incoraggiante questo accordo che si va a definire con Etihad. Forse solo la CGIL dice che le ricadute sul lavoro sono non gestibili, appunto perché chiaramente ricadono tutte sullo Stato italiano. Ecco, appunto, vista la situazione dei sindacati confederali, che come dicevi te non fanno assolutamente niente per mettere un freno a questa situazione, quali sono invece le prossime iniziative che si potranno mettere in campo come sindacalismo di base e di lotta? Ma purtroppo il sindacalismo confederale magari non fa niente, è che le organizza e le struttura queste operazioni. Era un eufemismo, infatti. Paradossale la dichiarazione di Bonanni che dice: vado più sereno alla trattativa con la vecchia cordata italiana, con il governo, perché mi sono prima garantito gli ammortizzatori sociali. Vorrei sapere che serenità avranno quei 2200 lavoratori che stanno rischiando il posto di lavoro. Ma Bonanni, per Bonanni qualche motivo ci sarà, se gli danno una laurea honoris causa per consulenza aziendale. Comunque, cioè, stiamo parlando di questa personalità. Sulla CGL, accennavi a delle riserve sulla CGL. La CGL a livello nazionale ha un po' di difficoltà a spiegare come ha fatto il 14 febbraio insieme alle altre organizzazioni a sottoscrivere un accordo che ha definito 2200 esuberi, mentre già ce n'erano 700 a zero ore, quindi per un totale già l'Alitalia CAI, quella che dovrebbe vedere l'ingresso di Etihad, già beneficiava per un complessivo 3000 posti di lavoro degli ammortizzatori sociali. L'ultimo accordo, ripeto, per 2300 persone l'ha firmato il 14 febbraio 2014, cioè qualche mese fa. Mi resta difficile spiegarlo. Qualche mal di pancia ce l'ha, le strutture di base regionali sembrano aver cominciato un percorso di lotta, vediamo, ancora sono un po' confusi gli obiettivi di questa lotta, evidentemente nella dialettica in confederale è un po' più articolata la situazione, staremo a vedere il sindacalismo di base e vedremo queste lì che cosa farà nelle prossime ore. Per adesso la CUB ha indetto uno sciopero generale che sarà partecipato, speriamo, in maniera trasversale dai lavoratori attualmente frontalmente attaccati, che sono Ground Care, che sono i lavoratori di Alitalia, che sono i lavoratori di SEA, e che soprattutto in qualche maniera rompa il silenzio che è calato su una vertenza che riguarda tutto il comparto e che ciliegina sulla torta deve subire pure la sfida del sindacalismo confederale, che dopo 20 anni mette ai voti un accordo come quello della SEA, un accordo che poi è esattamente tracciato nei contorni come quelli delle altre cose, nel momento in cui i lavoratori lo bocciano cerca i responsabili e definisce chi ha sostenuto, l'unica organizzazione sindacale che ha sostenuto e ha preteso di non sottoscrivere un accordo ancora una volta capestro, la definisce come demagogica, come di coloro che sono i responsabili di aver bocciato l'unico accordo possibile. Una vergogna è una vergogna. Noi sciopereremo, saremo in campo il 22 e chiamiamo a raccolta i lavoratori del comparto, delle gestioni aeroportuali, delle società di handling, dei vettori e anche dell'indotto. Ricordiamoci che nell'indotto purtroppo nessuno ne parla, perché pure lì i confini della pesantezza di questi provvedimenti sono poco nitidi, ma ogni posto di lavoro perso in Alitalia sono diversi posti di lavoro nell'indotto, come accade anche per le società di gestione. Quindi c'è una mattanza occupazionale delle condizioni di lavoro che si consuma anche nell'indotto, purtroppo lì nel silenzio e in assenza degli ammortizzatori sociali. Di questi addirittura sembrano essere dimenticati tutti. Noi con la mobilitazione vorremmo riuscire a dar voce all'intera categoria ancora una volta, sperando che ci abbia un'adesione sicuramente più determinata delle volte precedenti. Va bene, quindi per ricapitolare, domenica 22 giugno, se non ho capito male, questo sciopero generale che avete indetto, e poi magari, suppongo, andremo a risentirci fra qualche settimana, perché appunto la situazione è abbastanza in evoluzione. Il governo ha fissato una sorta di deadline per metà luglio, se non vado errato, per concludere questo accordo con Etihad e quindi tutto questo quadro, per cui magari, a parte, ti ringraziamo per questo quadro molto chiaro che ci hai fatto, e a parte augurarvi il meglio, però comunque soprattutto che magari appunto già questo sciopero del 22 riesca, come dici te, ad avere una partecipazione più massiva e determinata, e con questo ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi e agli ascoltatori. Ciao, a presto. Ciao, buona giornata. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono, perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua. Sì, e torniamo in studio con Corrispondenze Operaie dopo questo pezzo di lotta storico, possiamo dire. Torniamo per parlare comunque, sempre per rimanere comunque nel settore aeroportuale. Dopo l'avvertenza, diciamo, la situazione di Alitalia, passiamo invece a parlare del personale di bordo, per personale di terra, scusate, degli aeroporti, in particolare dei due scali romani di Ciampino e Fiumicino. Infatti in questi giorni ci sono stati diversi scioperi improvvisati con piccoli cortei interni in entrambi i due aeroporti romani, dove comunque all'incirca un migliaio di lavoratori rischiano di perdere il posto di lavoro dopo che il Tribunale di Civitavecchia lo scorso 28 maggio ha dichiarato il fallimento della Ground Care, che sarebbe il principale operatore negli aeroporti. In questi giorni praticamente ci sono stati questi scioperi e sappiamo che comunque all'incirca ci sono 850 persone. Abbiamo oggi in collegamento invece un lavoratore dello scalo romano di Ciampino, con il quale vorremmo un po' approfondire meglio la faccenda. Infatti ci sono stati in questi giorni diversi articoli sulle testate nazionali, in particolare su Repubblica, che parlava di sciopero delle valigie. Ma allora vogliamo capire un po' meglio chi sono esattamente questi lavoratori e di cosa si occupa il personale di terra della Ground Care. Flavio, sei in linea, ci senti? Sì, ciao, buongiorno a tutti e vorrei innanzitutto ringraziarvi per questa occasione che ci date, perché è proprio importante chiarire chi sono gli operatori aeroportuali per dare opportunità a tutti di capire bene qual è il nostro lavoro, perché purtroppo, come dicevi tu, quando leggiamo dei problemi che viviamo in aeroporto, oltre a quelli ben documentati da tutti, che sono quelli dei colleghi dell'Italia, purtroppo noi veniamo sempre etichettati come i facchini. Ma gli operatori aeroportuali sono personale e lavoratori altamente qualificati che sì, assolutamente si occupano anche di valigie, ma vi garantiamo che anche chi si limita a caricare gli aerei è personale altamente qualificato ed addestrato. Noi siamo praticamente, noi facciamo le veci, se così si può dire, delle compagnie aeree, cioè tutte quelle compagnie aeree che atterrano negli aeroporti naturalmente non hanno personale loro, ma fanno riferimento alle aziende di handling, cioè forniamo i servizi che possono avere, di cui possono avere bisogno le compagniere, dall'atterraggio dei loro aeromobili fino al loro decollo, quindi tutto quello che riguarda l'assistenza ai passeggeri, dai transiti all'accettazione, all'imbarco, alla movimentazione delle famose valigie in arrivo e in partenza, fino alla cura dei loro equipaggi. Questo è il nostro lavoro, quindi quando voi entrate dentro un aeroporto, quando voi entrate a contatto con il famoso personale che vi fa il check-in o che vi mette a bordo o che carica le vostre valigie, sono i miei colleghi. Questo per fare un breve, diciamo, cappello a questo intervento, era per chiarire bene che non siamo soltanto facchini. Okay, e la situazione che stiamo vivendo negli scali di Roma, Fiumicino e Ciampino, è abbastanza drammatica perché in particolare Ground Care nasce come azienda, come scissione dell'azienda Aeroporti di Roma, che è il gestore degli scali romani, in quanto nel 99 avviene la deregulation, cioè Aeroporti di Roma non può più vivere di monopolio all'interno dell'aeroporto, ma deve dare in gestione i servizi a chiunque sia in grado di ottenere una licenza. Quindi noi diventiamo Aeroporti di Roma Handling nel 2000, viviamo fino al 2007 come Aeroporti di Roma Handling, poi avviene la prima vendita a Flightcare ha una vita di 3 anni e mezzo, quasi 4, poi si ritrova a perdere, poi vi spiego anche perché le società di handling purtroppo non riescono più a guadagnare e falliscono. E l'ultima azienda che ci rileva è Ground Care. Ground Care ha una vita brevissima, non sto qui a giudicare il perché, ma ci sono molte domande che non hanno risposta, e Ground Care il 28 maggio purtroppo fallisce. Scusami, ci puoi fare un piccolo passaggio giusto in prospettiva? Ci puoi dire come sono peggiorate, comunque come sono cambiate le condizioni di lavoro? Purtroppo la situazione peggiora di anno in anno, perché naturalmente la deregulation permette a chiunque sia in grado di fornire i servizi di avere una licenza, quindi le licenze vengono date in particolare da ENAC, che è l'organo di Stato che è garante di tutte le attività che avvengono nel trasporto civile italiano e anche delle attività aeroportuali, supervisionato sempre dal gestore, che rimane Aeroporti di Roma, quindi diventa il padrone di casa, che per far capire a tutte le persone che ci ascoltano parlo in termini più semplici, però Aeroporti di Roma rimane il padrone di casa, che si occupa di dare in affitto i vari appartamenti che ci sono nell'aeroporto, cioè i banchi, tutte le situazioni che si possono vivere quotidianamente in aeroporto vengono gestite da aeroporti di Roma, quindi più aziende entrano ed offrono i servizi di handling nell'aeroporto, più naturalmente la concorrenza diventa spietata. La concorrenza come si fa? Fra gli handler, livellando verso il basso le tariffe che vengono chieste ai vettori, alle compagnie aeree. Quindi la compagnia aerea ha un portafoglio di scelta che nel corso degli anni da un handler sono diventati prima due, poi tre, poi quattro, fino a diventare addirittura sei, che è un numero secondo me che ha dell'incredibile, ma tant'è, vengono autorizzate queste licenze sia da ENAC che da aeroporti di Roma. Quindi naturalmente livellando verso il basso le tariffe, quindi gli incassi delle società di handling, voi sapete bene che è il costo del lavoro la prima cosa che viene tagliata. Siamo sempre nei lavoratori che purtroppo ci troviamo nell'occhio del ciclone di queste situazioni. Scusami, Ground Care però resta comunque il principale handler su entrambi gli aeroporti, no? Guarda, noi mi piacerebbe tanto dire che eravamo ancora il principale, ma nel corso degli anni purtroppo abbiamo perso talmente tante compagnie che ormai siamo diventati purtroppo il più piccolo. Siamo rimasti il più grande per numero di lavoratori, come professionalità e come know-how, sicuramente sì. Cioè, nel senso, nella nostra compagnia i nostri 850 lavoratori sono sicuramente quelli più professionalizzati, ma non voglio togliere assolutamente nulla ai dipendenti dei nostri avversari sul mercato, assolutamente, però avendo una storia più lunga di altri handler, noi siamo rimasti forse sì il più grande come nome, diciamo, sì. Purtroppo non come portafoglio compagnie, e infatti siamo quelli falliti per primi. Ma più o meno a livello di numeri quanti lavoratori ci sono? Siamo 850 lavoratori, 850 lavoratori da dividere poi naturalmente in personale operativo, cioè quello che vive a contatto con il passeggero e con le attività di rampa, e naturalmente poi anche quello, diciamo, di back office, cioè il personale, diciamo, degli uffici, dai, per farmi capire. E allora, ma magari passiamo un po' alla vicenda di questi giorni, diciamo. La vicenda di questi giorni, guarda, purtroppo è del paradossale, perché noi siamo 850 dipendenti di una società di fatto fallita, che ha consegnato il 28 maggio i liberi tribunali, e siamo amministrati da un curatore fallimentare, perché, ti ripeto, di fatto, essendo una società che offre un pubblico servizio, ma noi offriamo il pubblico servizio, ma di fatto siamo dipendenti di una SPA privata a tutti gli effetti, siamo, diciamo, non costretti, dobbiamo lavorare anche se siamo lavoratori di una società, ti ripeto, fallita, per almeno un mese. Questo è quello che ci ha detto il curatore fallimentare, cioè per permettere a eventuali acquirenti, compratori, di formulare eventuali offerte, che sono sempre volte a garantire la continuità e aziendale e lavorativa. Questo è quello che ci ha garantito il curatore fallimentare. Certo, continuità lavorativa che purtroppo secondo me non calcherà i numeri che avevamo prima. Perché? Perché chi rileva una società fallita prima di tutto si deve preoccupare dei ricavi a fronte dei costi, e purtroppo ti devo dire che 850 dipendenti non credo che saranno garantiti, verranno trovate sicuramente altre forme di continuità per loro, come gli ammortizzatori sociali o come la famosa cassa integrazione. Sì, scusami, e qui forse è opportuno ricordare. Nel frattempo cerchiamo di garantire il servizio con la massima dignità possibile e con la massima qualità del servizio possibile, perché purtroppo le vicende interne che ci coinvolgono purtroppo non devono mai andare a scapito dei passeggeri, che sono il nostro pane quotidiano e il nostro lavoro, anche se purtroppo i disagi che abbiamo causato nelle settimane passate sono state credo credimi, un atto dovuto per farci sentire, forse è proprio per questo che sto parlando con voi oggi. Ma lo abbiamo dovuto fare per far conoscere la nostra situazione all'opinione pubblica, agli enti di Stato, ai giornalisti, perché ti ripeto, purtroppo le persone che lavorano in aeroporto sono sempre i facchini. Quando si parla d'aeroporto o si parla di Alitalia o di valigie. E spero di aver chiarito un po'. Sì, guarda, su questo punto abbiamo chiarito abbastanza. No, io quello che volevo dire era che era opportuno praticamente ricordare che comunque voi state lavorando da maggio senza stipendio. Avete con una parte dello stipendio, guarda, perché non sarebbe giusto dire che stiamo lavorando senza stipendio, sarebbe una bugia. No, il 28 maggio sono state messe nella passività dell'azienda fallita gli stipendi di maggio e la quattordicesima di giugno. Questa è la verità. Noi stiamo lavorando con il curatore fallimentare che ci ha garantito una certa continuità anche di soldi, volgarmente parlando. Noi abbiamo ricevuto un 50% di anticipo sulla competenza di giugno e luglio, cioè sullo stipendio che noi avremmo preso alla fine di questo mese. Purtroppo è anche vero che il curatore parlamentare ci ha detto alle nostre rappresentanze sindacali che purtroppo il concetto di stipendio in questo momento deve essere dimenticato dai lavoratori, perché di fatto la società che ci paga è fallita. Quindi noi dobbiamo avere fiducia nelle sue capacità di amministrare quel piccolo patrimonio che è rimasto nelle casse, avendo piccoli anticipi. Anticipi, il 50% che andranno a coprire le mensilità fino al subentrare del nuovo acquirente. Quindi no, noi stiamo lavorando sicuramente con l'unica garanzia delle nostre prime righe, cioè tutto quello che noi facciamo in più nel nostro orario di lavoro, e credimi, in aeroporto ci si fa veramente poco con le 8 o con le 6 ore di contratto, quindi il lavoratore aeroportuale di solito va sempre in overtime. Molto probabilmente più lavoreremo, più non saremo pagati fino all'arrivo dei nuovi acquirenti. Appunto, ed è difficile anche in queste situazioni che comunque scioperare, perché come ricordavi tu prima, il vostro, diciamo, è un servizio pubblico, riconosciuto come pubblico servizio, nonostante voi siete dipendenti ufficialmente di una società per azioni privata, sì. E a proposito di questo è opportuno ancora ricordare che comunque dopo i diversi scioperi che ci sono stati in questi giorni, molti dei lavoratori sono stati raggiunti da ordinanze di precettazione. Sì, ma noi, cioè, lo sapevamo tutti quanti, noi eravamo coscienti che quel poco che dovevamo fare lo dovevamo fare nel più breve tempo possibile, perché il prefetto di Roma fa quello che deve fare semplicemente. Cioè, credimi, interrompere il servizio come abbiamo fatto noi a Ciampino, dove poi a Ciampino siamo gli unici operatori, perché i concorrenti operano nella versione generale, quindi non nella parte commerciale dell'aeroporto, è stato un durissimo colpo. Il prefetto ha fatto semplicemente quello che doveva fare, come noi abbiamo fatto quello che forse dovevamo fare, magari forse un po' prima, ma lo abbiamo fatto in quel momento. Cremo, penso che sia il caso, scusami, di buttarsi tanto giù. Penso che abbiate fatto quello che fosse giusto fare, credo. Veramente il prefetto, il prefetto fa quello che deve fare, ma perché chiaramente sta dall'altra parte, suppongo io, rispetto agli interessi di lavoratori che, come voi. Ma credetemi, ragazzi, chi lavora in aeroporto già sa quale sarà la sua vita lavorativa, quindi noi non vorremmo mai arrivare ad interrompere le nostre attività come abbiamo fatto quel giorno, mai, perché si sarebbe potuto evitare, e purtroppo mi dispiace, non lo so, parole fatte, parole già sentite, ma purtroppo in un paese come il nostro mancano purtroppo le regole ad ogni livello, purtroppo. Nel mondo del lavoro, in particolare nel mondo aeroportuale, dove per il regime di libera concorrenza necessita di regole ben precise e stabilite dagli organi demandati a governare il nostro settore. Questo nel corso degli anni purtroppo non c'è stato. Cioè non c'è stato. Noi lavoratori del settore aeroportuale siamo dei lavoratori che la crisi non l'ha proprio vissuta mai in questi anni. Il mercato del trasporto aereo, che se ne dica, perché poi purtroppo noi sentiamo sempre all'Italia, massimo rispetto per i colleghi all'Italia, però santo Dio, non esistono solo loro. Il mercato del trasporto aereo è un mercato molto florido, il passeggero non ha subito flessioni di sorta ed è impensabile pensare che una società, un'azienda di 850 lavoratori fallisce. È impensabile, signori, non può. È fallita per la mancanza di regole ben precise e per gli interessi, come al solito, negli interessi di pochi. Non sta a me andare a fondo questo discorso e non lo farò mai, perché noi lavoratori in questo momento ne abbiamo altri di problemi, ma i nostri signori ministri e i nostri signori direttori e dei trasporti e di ENAC dovrebbero farsi un esame di coscienza. Sì, scusami. Questa è l'unica cosa che mi sento di dire. Scusami, io personalmente e i miei colleghi non giudicheremo mai l'operato altrui, perché noi dobbiamo giudicare il nostro, perché questa è la nostra dignità di lavoratori. Flavio, scusami se ti interrompo, ma dobbiamo volgere a chiusura perché siamo già di là. Scusate voi, signori, se mi sono dilungato. Ma no, volevo fare un brevissimo passaggio con te, non ti preoccupare, sì. Assolutamente. Dato che prima comunque abbiamo sentito un lavoratore di Alitalia, che appunto lui che conosco tra l'altro. Che conosci, sì, benissimo. Lui appunto mi diceva, a questo proposito, allora c'è stato comunque un tentativo di dialogo, diciamo, tra le parti, perché lui comunque parlava di la formazione in un fronte dei lavoratori su, diciamo, nell'intero settore. Non so se ci sono stati in questi giorni dei tentativi di dialogo tra voi. Ma dialogo tu che intendi, fra noi e i colleghi di Alitalia o... Certo, per creare, diciamo, un fronte di lotta unico, per cercare di dare guarda, più voce. Guarda, se devo essere sincero, no, perché Alitalia e i lavoratori di Alitalia sono tutelati, molto sono tutelati. Beh, sotto ogni punto di vista e da qualsiasi fronte. Beh, sono stati annunciati anche lì 2200 esuberi. A livello politico, noi non abbiamo mai cercato di mischiare i nostri problemi, quando dico problemi, del settore di handling con quelli di Alitalia. Scusami, quindi, Flavio, comunque, non so se tu comunque prima hai sentito la nostra corrispondenza con il lavoratore di Alitalia, però chiaramente a noi ci è sembrato molto importante quello che ha voluto mettere in evidenza, perché nel momento in cui per loro, tu chiaramente da un tuo punto di vista dici che loro sono un po' più tutelati, però chiaramente ora si profilano altri 2251 esuberi per loro in una situazione in cui già ci sono migliaia di lavoratori in cassa integrazione a zero ore, in mobilità, in contratti di solidarietà, ma soprattutto ci sono circa 1300 dipendenti con contratti assolutamente precari. Il discorso che faceva il lavoratore prima era appunto quello di comprendere come sia per il vettore, quindi sia per il personale delle compagnie aeree, sia per del personale di terra dei vari aeroporti, la situazione sia quasi la stessa. Chiaramente ognuno ha le sue specificità della propria situazione lavorativa, ma se si parla di esuberi, di fallimenti da una parte, di licenziamenti e cassa integrazione dall'altra, chiaramente quello che ne viene fuori è che, penso, suppongo, per andare avanti rispetto a quello che poneva il lavoratore di Alitalia, o si fa fronte comune o purtroppo, lasciando singola e solitaria ogni singola vertenza, chiaramente credo che si è molto più deboli. Rischio di essere impopolare, rischio di sembrare cattivo, però mi fa sorridere il fatto che adesso Alitalia si ricorda di noi, cioè degli altri colleghi, quando questa situazione gli altri colleghi la stanno vivendo ormai da quasi 10 anni, e credimi, all'Italia e la sua politica di mestiere, diciamo di mestiere, di lavoro all'interno dell'aeroporto è causa e concausa della nostra situazione. Beh, forse però qui, scusami un attimo, poi tranquillamente cerchiamo di andare alla conclusione, però scusami, qui forse il problema non è il lavoratore o la lavoratrice in sé, ma come dici te, se causa è con causa di ciò che si verifica, no, scusami, questo per capirci, no, se ciò che si verifica negli aeroporti, come dici te, causa è con causa di tutto quello che fa l'Italia, chiaramente purtroppo i lavoratori non sono responsabili minimamente delle politiche, della gestione di Alitalia, ma sono vittime anche loro di questa situazione. Ma io sono e tutti siamo solidali fra lavoratori, assolutamente, ma fare fronte comune in questo momento vuol dire fare fronte comune sulla richiesta di regole ben precise che regolamentino il nostro ambiente di lavoro. Su quello possiamo fare fronte comune, poi c'è la solidarietà fra lavoratori, perché tutti quanti stiamo vivendo la stessa situazione. Va bene, però Flavio, un'ultima cosa, magari giusto per salutarci, perché davvero siamo troppo di là con i tempi. Non so se avete già programmato, se avete prospettive di mobilitazione ulteriore, se ci sono giornate già programmate nei prossimi giorni. No, non in questo momento. In questo momento, purtroppo, per garantire la continuità del servizio e dell'azienda, dobbiamo purtroppo soltanto stringere i denti e continuare a garantire il servizio e a preoccuparci di fare bene il nostro lavoro in questo momento. No, non credo ci saranno altre iniziative eclatanti come quelle delle scorse settimane. Allora, ti ringraziamo per il tuo intervento quest'oggi in studio e speriamo che la vicenda possa concludersi al meglio nei prossimi giorni. Seguiremo tutta l'evoluzione. Speriamo di risentirci con un esito sicuramente positivo. Certamente, naturalmente se ci sono nuove evoluzioni, nuove cose da comunicarci, non esitare a contattarci. Sarà mia cura, ragazzi, buon lavoro e saluto tutti. Grazie anche a te, buona giornata allora. Grazie. Sembran poche, provate voi a lavorar. Se 8 ore vi sembran poche, provate voi a lavorar. E provere è la differenza di lavorare e comandare. E provere faremo come la Russia, chi non lavora non mangerà. E noi faremo come la Russia, chi non lavora non mangerà. E quei vigliacchi di quei signori verranno loro a lavorare. E quei vigliacchi signori verranno loro a lavorare. Torniamo qui in studio su Radio Onda Rossa, sempre su Corrispondenza Operaie. Allora, noi, come ha ricordato Francesco, oggi avevamo intenzione di fare altre corrispondenze. Una di queste riguardava sempre il mondo della logistica, una lotta che vede protagoniste delle lavoratrici, delle facchine dell'interporto di Bologna. Volevamo un po' raccontare questa lotta perché diciamo che le lavoratrici sono scese in sciopero giovedì. Queste lavoratrici, oltre a subire le stesse condizioni di lavoro che più volte da questi microfoni raccontiamo, le stesse condizioni di lavoro degli altri colleghi, gli altri facchini della logistica che già si sono ribellate a queste condizioni di lavoro in tante città d'Italia, oltre a subire questo stesso trattamento, erano costrette a subire dal caporale, dal capetto, dal capo di reparto, continue molestie sessuali da molti anni. Le lavoratrici all'interno di questa azienda, l'azienda ricordiamo è la IUX, e la cooperativa che gli gestisce poi il servizio di facchionaggio si chiama la Mister Job. Queste lavoratrici appunto sono scese in sciopero giovedì, hanno effettuato un primo sciopero organizzato nel Sicobas. A questo sciopero hanno partecipato alcuni compagni e compagne in solidarietà di questa lotta, hanno effettuato un picchetto che ha bloccato l'uscita dei mezzi, dei camion, dei furgoni dall'azienda. È un'azienda che praticamente si occupa di vendita online, prevalentemente del settore di abbigliamento, vestiti femminili, scarpe, occhiali. Quindi comunque questo giovedì a questo picchetto c'è stato anche in questa occasione l'intervento della forza pubblica, l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno avuto un atteggiamento aggressivo e brutale, cercando di trascinare per terra le lavoratrici che si erano messe davanti al cancello sedute per bloccare l'uscita dei camion. Fortunatamente la determinazione di queste lavoratrici ha consentito comunque la continuazione del picchetto per diverse ore, bloccando per diverse ore la produzione. È una situazione abbastanza particolare. Noi siamo in contatto con le lavoratrici dell'Interporto di Bologna. Oggi ritornavano al lavoro, quindi non abbiamo avuto la possibilità di sentirli in diretta. Ci stiamo organizzando in questa settimana, eventualmente registreremo un'intervista con una delle lavoratrici per farci raccontare personalmente che cosa sono state costrette a subire in questi anni, che cosa stanno chiedendo con questa lotta che hanno iniziato. E intanto gli mandiamo la nostra solidarietà e naturalmente continueremo a vigilare in questa situazione. Volevo giusto ricordare che la redazione di InfoOut e il laboratorio Clash in queste settimane ha avviato un'inchiesta per dentro questo magazzino, per mettere alla luce le condizioni di lavoro sicuramente, ma appunto questo aspetto degli abusi, delle molestie sessuali che dovevano appunto subire queste lavoratrici. C'è già qualche diciamo intervista che gira. Scusami, anche su questo, perché una qualcosina è uscita, che nelle molestie sessuali c'è anche inserita la questione anche religiosa, perché chiaramente la maggior parte o buona parte vengono dal Nord Africa e non si facevano scrupoli a far presente che fossero musulmane, comunque di religione islamica, e utilizzavano anche questo nelle loro molestie sessuali, vari caporali e padroncini. Sì, hai fatto bene praticamente a ricordarlo. Le lavoratrici appunto sono in gran parte immigrate anche qui, e appunto una delle cose assurde che devono costrette a subire era la minaccia di essere licenziate eventualmente se facevano figli, e quindi gli veniva sempre ricordato che non dovevano, appunto ricordando la questione della religione musulmana, che non dovevano fare figli. Comunque come ho detto prima, cercheremo di dar voce a questa lotta di queste lavoratrici che finalmente hanno avuto il coraggio di alzare la testa e di entrare in lotta. Quindi da noi va la nostra solidarietà. Un altro episodio che ci giunge sempre dal mondo della logistica viene dalla provincia di Bergamo. Un delegato sindacale dello SLAI Cobas questo sabato ha ricevuto un'aggressione da tre elementi incappucciati, vigliacchi, fascisti, che si sono fatti ritrovare sotto casa sua, l'hanno aspettato, l'hanno aggredito provando a rompergli una gamba con un attrezzo di ferro. Fortunatamente non ci sono riusciti, grazie al fatto che i vicini si sono affacciati subito sentendo le grida. Questi vigliacchi sono scappati. È evidente che questa aggressione è dovuta, viene indirizzata dalle cooperative che gestiscono i servizi sempre nel mondo della logistica, proprio perché questo compagno è un compagno molto attivo nelle lotte della logistica nella provincia di Bergamo, e proprio in queste settimane stava organizzando i lavoratori di un magazzino, la lotta di alcuni lavoratori di un magazzino contro appunto gli stessi soprusi, le stesse condizioni di schiavismo che ci sono, che stanno sempre di più emergendo nel reparto della logistica. Sempre dal mondo della logistica, ricordiamo la, che è sempre viva la lotta dell'IKEA. La scorsa settimana i lavoratori licenziati si sono ritrovati davanti ai cancelli dei magazzini di Piacenza, bloccando ancora una volta l'uscita dei mezzi, effettuando un altro picchetto. Anche Roma si aggiunge alle varie azioni di solidarietà che in queste settimane sono state fatte in molte città italiane. Anche qui a Roma, davanti all'IKEA di Anagnina, è stata fatta un'azione di solidarietà a questa lotta, organizzata dall'Assemblea di Sostegno alle Lotte della Logistica. Vi do la parola a Francesco per gli ultimi saluti. Sì, siamo arrivati alla conclusione, ci siamo allargati tanto perché non c'è il giornale radio, non c'è chi sostituisce per fare giornale radio delle 13. E prima di salutarci esuliamo al volo dai temi di Corrispondenze Operaie, ma sarebbe esulare in realtà in maniera fittizia, perché si parla sempre di lotte che sono collegate fra di loro. E diamo un appuntamento per domani mattina a Via degli Ontani numero 66 a Centocelle, dove si prevede l'intervento delle forze dell'ordine per eseguire uno sfratto ai danni di una famiglia bengalese, se non sbaglio con tre figli, tra l'altro con due figli, scusatemi. E l'appuntamento è per le 7 di mattina, appunto molto presto, perché a quanto pare si prevede l'arrivo della forza pubblica. Vi ricordo, Via degli Ontani numero 66 a Centocelle. Non so, concludiamo così. Ok, perfetto. E niente, per la settimana prossima, appunto, abbiamo già anticipato che proveremo magari a fare una registrazione con le facchine della Iux. Proveremo anche a metterci in collegamento con qualche lavoratore dello Stato spagnolo. Questo quantomeno per ora, poi le cose possono evolvere, cambiare, forse ci potrà essere qualche nuova corrispondenza. Comunque ci salutiamo e ci risentiamo lunedì prossimo. Raddoppia ogni casella di scacchiera, lastrichiamo di colpi il vostro mare per camminarci sopra. Non potete contarci, se contati aumentiamo, figli dell'orizzonte che ci rovescia a sacco. Nessuna polizia può farci prepotenza più di quanto già siamo stati offesi. Faremo i servi, figli, che non fate le nostre vite, i vostri libri di avventura. Portiamo Mero e Dante, il cieco e il pellegrino, l'odore che perdeste, l'uguaglianza che avete sottomesso. Qualunque distanza arriveremo a milioni di passi, noi siamo i piedi e vi reggiamo il peso, spaliamo neve, pettiniamo prati, battiamo tappeti, raccogliamo il pomodoro e l'insulto, noi siamo i piedi e conosciamo il suolo passo a passo. Noi siamo il rosso e il nero della terra, un oltremare di sandali sfondati, il sera. Uno di noi a nome di tutti ha detto non vi sbarazzerete di me, va bene muoio ma in tre giorni resuscito e ritorno. in braccio al Mediterraneo, migratori di Africa e di Oriente affondano nel cavo delle onde. Il pacco dei semi portati da casa si sparge tra le alghe e i capelli. La terraferma Italia è terra chiusa. Li lasciamo annegare per negare.